funzionato! Ha funzionato! Oh, che bello che tu sei tornata te stessa! Ora ci serve il tuo aiuto! Un vero amico ti aiuterà, e sempre lì accanto a te sarà. La luce nel suo cuore è quella che tu sentirai, ed è l'amore che ha per te. Eila, scusate, vi spiacerebbe liberarmi? Rari, ti è in difficoltà, fatica molto, ma non ce la fa. Prova a darti solo una chance, ed il sole di nuovo apparirà. Un vero amico ti aiuterà. Cos'è successo? Non c'è tempo per spiegartelo, ma ci serve il tuo aiuto. Applejack cerca di fare dei vestiti. Non devi dire altro. Applejack è un po' nei guai. Ti sarà grata se lo aiuterai. Prova a darti almeno una chance. Il tuo aiuto su misura le starà. Un vero amico ti aiuta. Che ho fatto? Anzi, forse sto ancora sognando. Rarity, Pinkie Pie può perdere la fattoria degli Apple. Ci serve l'aiuto di Applejack. Perdere la fattoria degli Apple? Beh, non possiamo lasciare che succeda. Pinkie Pie va aiutata. Dobbiamo andare. Città sono tutti furiosi. Abbiamo bisogno della vecchia Pinkie Pie. Ho capito, so che cosa fare. La gente è furiosa, via.